Essere e benessere di Nicoletta Carbone. La domanda è questa: siamo sicuri che facciamo bene a separarci, a cioè a non stare più insieme? Stiamo insieme tutta la settimana, almeno la domenica, ognuno per gli affari propri, no? Insomma, io... Tu devi abituarti a stare un po' senza di me. Dormi, prendi il sole, nuota, fai quello che ti pare, se no ti sott'acquano più di mezz'ora, eh? Perché? Perché fa male alla pelle. Hai capito? Non posso essere io il tuo mondo. Beh, io vado, ci vediamo stasera alle 7, eh? Ciao, buon divertimento. Ciao, ciao. Non tutto il sole viene per cuocere. Non tutto il sole viene per cuocere, parole sante il sole, capace di regalarci gioia, bellezza e salute. Intanto buongiorno da Nicoletta, oggi di sole, dei vantaggi, dei benefici del sole, ne parleremo insieme a tanti ospiti, soprattutto insieme alla dottoressa Riccarda Serri, dermatologa e presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica, che è qui in studio con me. Bentornata. Buongiorno, buongiorno a tutti, che piacere essere qua. La vedo tra l'altro bella abbronzata. Sì, ho una bella abbronzatura spray. Ci racconti tutto. Iniziamo, questo è già un vantaggio. Il sole non c'entra, noi vogliamo parlare di sole, ma... Certo, perché sappiamo tutti, ormai penso che anche i bambini sappiano che l'eccesso di sole non fa così bene e fa invecchiare precocemente la pelle. Allora... Per essere però abbronzati, perché tutto sommato abbronzati si aiuta, sta bene, sì. Aiuta, ti dà quell'aria sana, quell'aria un po' vacanziera anche se stai lavorando tanto, ci si può sottoporre periodicamente a questa abbronzatura chimica con molecole che derivano dallo zucchero, che poi sono il diidrossiacetone, l'eritruloso, che adesso viene nebulizzato uniformemente sul corpo. Lo si fa non prima di andare al sole, per dare in modo che questa reazione, che si chiama reazione di Maillard, ed è una reazione che di coloritura della pelle, non è di neoproduzione di melanina. La pelle si colora, sembri abbronzato ma non lo sei, non hai nuova melanina e non vai subito al sole chiaramente perché non ha un'azione protettiva e stai bene, sei carino. Molto, molto carino. E poi se viene nebulizzato viene distribuito in maniera uniforme, perché il guaio un po' degli autoabbronzanti è proprio questo di essere spesso e volentieri di apparire a chiazze. E invece così c'è questa possibilità di avere l'abbronzatura uniforme. Io mi ricordo che lei mi aveva detto prima di usare l'autoabbronzante di fare un leggero scrub, vale, certo, anche per queste nebulizzazioni? Perché dunque, numero uno, la pelle deve essere il più levigata possibile, perché l'autoabbronzante tende ad accumularsi laddove ci sono degli spessimenti cutanei, laddove c'è uno strato corneo più spesso, per cui è opportuno proprio rendere la pelle più uniforme e levigata. Certo. È anche altresì importante lavarsi prima con detergenti a pH acido e non a pH basico. Questo è piuttosto importante. Perché l'autoabbronzante prende molto meglio. Ed è la terza cosa importante: dopo aver applicato l'autoabbronzante, non andare al sole per 8-10 ore. Quindi è meglio farlo nei momenti di buio e poi esporsi al sole, ma naturalmente protetti. Naturalmente protetti. Questo permette di essere abbronzati e di poter stare al sole, avendone tutti i vantaggi di cui parleremo oggi, perché il sole porta tantissimi vantaggi, ecco, diciamolo, ma soprattutto per chi ha la pelle, per esempio, chiara come la mia. Io sono rossa di pelle, faccio lentiggini, il sole per me è pericoloso. Per questo ha fatto la dermatologa. Certamente. Beh, è anche molto familiare, ce l'abbiamo nei geni. Sì. Ce l'abbiamo nei geni e certamente noi siamo più a rischio di danno solare, non solamente di invecchiamento, macchie eccetera, ma anche proprio di tumoretti della pelle, per cui... Allora, vantaggi del sole oggi insieme alla dottoressa Serri, insieme a tanti ospiti. Intanto ci siamo portati a casa qualche consiglio per regalarci questa abbronzatura anche senza sole e per poi esporci al sole adeguatamente protetti, ma con quel colorito che non fa... Certo, poi io che tengo non fa presente tanto che è da maggio che prendo integratori di fotoprotezione attiva, ma parleremo anche di questo. Parleremo parleremo, se volete utilizzarli, se li state utilizzando, chiamateci al nostro numero verde 800 24 00 24, perché dottoressa Serri, sul sole ne abbiamo sentite di cotte e di crude. Oggi vogliamo proprio parlare dei benefici visibili e di quelli invisibili ad occhio nudo, ma che sono ugualmente importanti. Intanto chiedo anche ai miei ascoltatori di raccontarci in tre parole la loro relazione con il sole. Io ad esempio userei gioia, bellezza e salute. Aspetto naturalmente le tre parole dei nostri ascoltatori, perché dottoressa Serri, lei oltre a essere il nostro ospite di oggi, l'ospite d'onore, dovrà scegliere anche le tre parole che più secondo lei funzionano, perché l'ascoltatore prescelto riceverà a casa un libro molto interessante, Clio Beauty Care, la cura della pelle e i cosmetici fai da te, grazie alla collaborazione con la libreria Rizzoli.it. Quindi io non partecipo. Ma carina, Clio. Io, sì. Sì, che è una ragazza che ha cominciato a fare tutorial su YouTube, sì. Una self-made lady, ma proprio una brava in gamba, brava, molto in gamba, come le donne che piacciono gamba. A noi, sì. Allora io le tre parole le ho messe, le ho date, quindi gioia, bellezza e salute. Lei come dermatologa che cosa vorrebbe dire? Io vorrei dire vita, perché senza il sole non ci sarebbe vita, nessun essere, tranne pochi organismi unicellulari, pochi animaletti che vivono nelle grotte, nessun essere vivente, che sia vegetale, che sia animale, può vivere senza il sole. Il sole è vita. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note, don't worry, be happy. Io non so come la pensiate voi, ma il sole, la luce solare è un tocca sana per il nostro umore. Pensate a come vi sentivate quest'inverno, quando il cielo era grigio, le giornate corte, buie, veniva subito notte, insomma tutta un'altra storia. Non è un'impressione, non è neanche il pensiero delle vacanze vicine a renderci più di buon umore, più positivi. Buongiorno intanto al professor Claudio Mencacci, psichiatra e direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'azienda ospedaliera Fate Bene Fratelli di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno, questo è ancora di più un buongiorno dicendo com'è bello il sole quando sorge. Professore, esagero se dico che il sole è un antidepressivo naturale capace di scatenare le endorfine, gli ormoni del benessere? Dice una grande verità, perché l'aumento delle ore di luce che attraverso i nostri occhi vanno a stimolare delle aree del nostro cervello sono proprio quelle che ci permettono di avere un aumento soprattutto di serotonina, quindi un miglioramento del tono del nostro umore, ma soprattutto della capacità di pensare in termini più positivi. Questo ci sono tantissimi studi, ovviamente ci si cura anche con la luce, la luce è uno dell'esposizione alla luce, una delle cure della depressione, poi a speciali lampade che vengono utilizzate, ma una delle cose assolutamente più interessanti, anche posto che siamo su Radio 24, è proprio come la luce solare influenzi tutti i nostri ritmi, ma addirittura influenzi anche la propensione agli investimenti. Questa è una piccola curiosità. Veramente? Sì. C'è stato uno studio portato su 26 borse internazionali e si è visto come la presenza di cielo terso e di sole porti a una maggiore propensione agli investimenti e a guadagni da parte degli investitori. Questo è uno di quegli studi che ci deve far pensare, cambia ovviamente da emisfero a emisfero, ma è interessante comprendere, posto come la luce possa portare a sicuramente un miglioramento delle nostre condizioni, e come la riduzione della luce invece ci esponga di più, non solo un abbassamento del tono dell'umore, ma anche a commettere più errori. Quindi professor Mencacci, regaliamoci una passeggiata mattutina? Bastano, proprio così, la luce che serve proprio per la nostra salute fisica e mentale è proprio la luce bianca, quella delle prime ore del mattino, quella che va dalle 8 fino alle 10, 10 e mezzo, o una luce intensa, basta passeggiare, quindi fare attività fisica e guardare questa luce, e questo sicuramente contribuisce alla nostra salute più in generale. Grazie professor Mencacci per essere stato con noi, buona luce! Luce a voi! Ma che strano sogno, di un vulcano e una città, gente che ballava sopra un'isola, suonava blu gardenia, un'orchestrina jazz, l'acqua ribolliva lentamente adesso, l'esplosione poi, dolce, dolce, una bronzatura atomica, tra la musica. Terry, oltre al buon umore, il sole regala anche bellezza. Non so se è proprio una bronzatura atomica, abbiamo parlato della bronzatura chimica, Sì. Ma c'è anche la bronzatura che proprio ci regala il sole, una bronzatura dorata che sì, ci rende più belli. Perché sarà perché il sole bacia i belli. Sì, va anche detto che oggi, grazie al cielo, si va incontro alla salute della pelle, non è più di moda quella bronzatura così color cuoio che c'era un tempo, è sufficiente un bel colore dorato che è segnale di salute, di benessere, ma non di malessere e danno cutaneo. Il sole fa bene alla pelle, fa bene all'organismo, fa bene all'umore, purché sia preso in dosaggi giusti, nei momenti giusti. Emanuele ci scrive, abbiamo chiesto le tre parole che raccontano la relazione e i benefici del sole. Emanuele ci scrive allegria, luce e calore. Intanto me li segno, sono già tanti quelli di voi che mi mandano queste tre parole magiche, e poi la dottoressa Serri sceglierà. Gelsomina da Napoli, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Io volevo chiedere alla dottoressa, io ho 62 anni, qualche consiglio prima e durante l'esposizione al sole. Se per esempio gli integratori a base di vitamina E fanno bene, sono utili, sono necessari, per quanto tempo bisogna prenderli? Se bisogna prenderli prima, dottoressa Serri. Secondo me gli integratori fanno molto bene, non tanto per abbronzarsi di più, ma per abbronzarsi meglio e con meno danno. Perché cosa fanno questi integratori solari antiradicali liberi, che si chiamano anche fotoprotezione attiva, a base di vitamina C, vitamina E, carotenoidi, luteina, resveratrolo, antociano, bioflavonoidi, insomma ce n'è tanti, il tè verde, il Q10, ce ne sono tanti, e chiaramente non si possono prendere tutti insieme, si sceglie in farmacia, magari consultandosi col farmacista o col dermatologo, quello che ci piace di più o più adatto a noi. Questi integratori servono a proteggere le cellule dal danno solare. Il danno solare si manifesta sul nucleo cellulare, quindi hanno un'azione protettiva nei confronti proprio dei radicali liberi che i raggi solari, che si chiamano anche fotoni, producono quando incontrano il sistema biologico cutaneo. Sono un po' la maglia della salute delle nostre celluline. Esatto, un po' proprio la maglia della salute, esatto. Rendono le cellule più forti nei confronti del danno, quindi ci si abbronza meglio con meno danni. Sono nati soprattutto per chi aveva problemi di fotosensibilità, cioè di fotoreazioni, quando la pelle in seguito all'esposizione solare va incontro a diverse problematiche, a fotodermatiti, eccetera. Però si è visto che il loro utilizzo è estremamente utile proprio per aumentare le difese della pelle e rendere la bronzatura in definitiva molto più efficace e meno dannosa. Andiamo ad Albano, ci chiama dalla provincia di Varese. Buongiorno Albano. Buongiorno, è un piacere sentirvi. Grazie Albano, anche noi la sentiamo volentieri. Ci racconti? No, beh, io faccio ciclismo, quindi ho praticamente le gambe e direi anche la testa un po' scoperta, visto che non ho molti capelli. Basta un voglio dire, un antisolare normale, oppure ci devo mettere qualcosa di rinfrescante, perché alla fine poi del ciclismo sento le gambe un po' legate, non so come dire. Beh, certo, in più c'è l'azione del sudore. Noi sappiamo che il sudore rende la pelle comunque anche più sensibile. Certamente in testa io le consiglio un bel cappellino, che sarebbe la cosa migliore, soprattutto se lei ha pochi capelli, anche perché sudando comunque il fattore di protezione solare contenuto nelle creme poi magari diminuisce in efficacia, perché si mescola al sudore, per cui consigliabile un cappello. Sulle gambe occorrono dei solari waterproof di un tipo non troppo pesante, perché certamente, ripeto, anche col sudore questi solari possono poi dare fastidio. Albano, ha tre parole per raccontarci la sua relazione con il sole? Sì, io ho annunciato prima la vitalità, perché il sole mette vitalità, mi mette molta, molta voglia di fare. Sì. E la consolazione, perché tutte le mattine quando mi sveglio e vedo che è una bella giornata, questo mi conforta. Va sul cuore, è vero. Me ne manca una terza? E la terza, adesso non me la ricordo più cosa ho detto, è la... Allegria, perché è veramente una, oltre che essere una consolazione, è una forma di approccio alla vita molto molto molto bello. Solare, come si dice. Sì. Grazie Albano. Invece Marina ci scrive: luce, trasparenza e armonia. Dottoressa Serri, parleremo naturalmente anche degli effetti invisibili che il sole ha sulla nostra pelle, sulla nostra salute, perché il sole è veramente una fonte di energia, di vita, come lei certo. ci diceva. E però tra quelli visibili noi notiamo che molte malattie della pelle con l'esposizione al sole, con l'aumento delle ore di luce, si attenuano modo significativo. Ci sono delle malattie della pelle che proprio sfruttano i vantaggi della elioterapia. L'elioterapia è una terapia che esiste da sempre, la terapia del sole. Per esempio la psoriasi. La psoriasi è una malattia della pelle caratterizzata da chiazze arrossate, iperkeratosiche ed squamanti. Migliora molto in seguito all'esposizione ai raggi solari. Anche la dermatite seborroica migliora, molte situazioni di pruriti, di allergie migliorano, a patto che il sole sia un sole dolce, non sia un sole insultante, sia il sole delle ore del mattino e del pomeriggio, perché il sole più forte, quando il sole è allo zenith, il sole diciamo tra le 11 e le 2 e le 3, invece va evitato, perché in quel caso è troppo forte per la nostra pelle e i raggi solari poi possono rappresentare un insulto che porta la pelle in una condizione di stress la pelle si mette in difesa e può dare segnali proprio di infiammazione, irritazione. Cioè in pratica bisogna prendere il sole in maniera da non infiammare la pelle, quindi meno sole per chi è più chiaro di pelle, per chi produce poca melanina, cioè per chi ha un fototipo basso, un po' più di sole per chi è più scuro e produce più melanina e più un fototipo alto, più mediterraneo, però sempre attenti al sole di quando la temperatura è molto calda, se il clima è molto umido e negli orari centrali della giornata. Nel caso per esempio di dermatiti allergiche, di dermatiti atopiche, il sole, chiamiamolo secco, in clima secco fa molto bene, il sole in clima umido, quando si suda tanto, invece non fa assolutamente bene. Allora, tanti consigli per prendere dal sole solo il bello, e ne abbiamo da prendere, certo, dottoressa certo. Serri, quasi una scorpacciata se al sole ci naturalmente esponiamo con la testa, magari, sì. E tra l'altro coperta. Vorrei anche aggiungere una cosa molto importante, che i maggiori danni solari sono in quegli individui che non stanno mai al sole, che non si espongono mai, poi improvvisamente si espongono per tante ore, mentre chi si espone per poco tempo a lungo è come più immunizzato e subisce meno danni e ha tutti i vantaggi del sole. Essere e benessere. Il Sole per Amico, un grande amico, raccontateci, mi, si, vi, come si dice, che cosa vi regalano i suoi baci, forza, allegria, bellezza, mi scrive Antonella. Un altro ascoltatore o ascoltatrice non si firma, luce, serenità gioiosa, emozione del corpo. Una Marina che ci raccomanda anche una buona settimana tutta Radio 24, energia, buon umore e vitalità. Però tutti vorremmo avere una abbronzatura uniforme, che ci faccia sentire belli, ci faccia sentire più a nostro agio, ma ci sono anche, c'è il bon ton anche dell'abbronzatura. Sabato ero a Viareggio e vedevo sulle spiagge questi corpaccioni buttati lì con, no, slip un po' arrotolati, spalline che scendevano, tette che uscivano, insomma, fin quando poi i corpi sono belli, giovani, sì, è una bellezza. Se no, in linea con noi abbiamo un'amica, Barbara Ronchi della Rocca, buongiorno, esperta di buone maniere. Buongiorno. Allora, io pensavo a lei quando guardavo tutta questa carne al sole. Ecco, il problema dell'abbronzatura è proprio quella, che siamo talmente concentrati sul prendere una bella tintarella che non ci rendiamo conto che siamo in pubblico e che quella che per noi è magari la posizione più giusta per annerire l'interno coscia dimostra poi invece una postura anche vagamente indecente. Sì, ecco, perché ci sono veramente persone che riescono a stare in posizioni che metterebbero in difficoltà un contorsionista. Quindi, infatti, veniamo. Forse noi dobbiamo riprendere però il collegamento, perché sentiamo Barbara un po' male, con una voce che non ci arriva proprio bene, per cui dalla regia la richiameranno. Intanto voi pensate come vi esponete al sole, dottoressa Serri? Sì, il pareo salva, Sì, ma al di là di quello è proprio che non... Io sono abbastanza democratica e secondo me tutti hanno diritto a esibire il corpo che hanno. Ma certo. Però un minimo di dignità e classe, quello serve. Queste donne di una certa età in perizoma, a me quelle chiappette molli è la cosa che mi fa più effetto. Proprio quelle chiappe cadenti di queste donne di una certa età, anche della mia età, diciamo, in perizoma, piuttosto che con il topless, che esibiscono delle brutture che veramente fanno tristezza. Perché il sole arriva e procura benefici e vantaggi, anche se siamo un po' coperti. Da quel punto di vista sì, no? Da quel punto di vista assolutamente sì. E poi diciamo che il sole, per dare dei benefici, può anche essere preso solamente sulle braccia o solamente sulle gambe, proprio per aiutare la sintesi della vitamina D che permette la fissazione del calcio, che è una delle funzioni importanti metaboliche dei raggi solari, ecco. Inoltre, per produrre endorfine non serve esporre proprio tutto il corpo. Produrre endorfine, che sono queste molecole della felicità e della gioia che noi abbiamo visto e scoperto essere prodotte anche dalle cellule dell'epidermide, dai cheratinociti, in seguito a stimolo solare, certamente non è opportuno essere tutti nudi. E a me è capitato addirittura di vedere mancanze di rispetto colossali, cioè persone in topless in paesi musulmani, dove noi sappiamo bene che questo è piuttosto grave, ecco, per cui, insomma. Allora, Barbara, siamo di nuovo in collegamento. Qualche regola per abbronzarci in modo piacevole, senza, insomma, no? Ecco, ho sentito che parlavate di topless nei paesi musulmani. Ecco, io vorrei ricordare che i paesi musulmani non sono gli unici in cui vige un'idea di pudore diverso dal nostro. Anche in tutto il sud-est asiatico, quindi parlo di India, di Thailandia, ecco, non si mette in topless e si deve evitare possibilmente anche la mutandina da costume stile casual sex. Questo vale anche per gli uomini. Quindi sono stata confortata da quello che ho sentito prima. Uno può prendere la tintarella anche con un costume un pochino più classificato. Allora, cerchiamo di non sfogliarci troppo, soprattutto se invece siamo dei fanatici del nudismo o andiamo a scegliere una spiaggia per nudisti, oppure se frequentiamo spiagge per famiglie, ci prendiamo una barchetta, un pattino e ci portiamo al largo, dove potremo dare sfogo alle nostre pulsioni nudiste. Grazie a Barbara Ronchi della Rocca, buona giornata. Vorrei dare una cosa, sì, lasciatemelo dire, per le spose d'estate, vi ricordo che l'abbronzatura non è mai elegante per le spose. La sposa, proprio perché si veste di bianco, proprio per l'acconciatura, eccetera, non deve essere abbronzata. Ecco. Un po' di colore di salute va bene. Ma l'abbronzatura no. Se vi sposate dovete rinunciare, le rinunce iniziano ancora prima del matrimonio, dovete rinunciare all'abbronzatura. Grazie a Barbara Ronchi della Rocca, esperta di buone maniere. Noi andiamo a Marilena che ci chiama da Varese. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho un problema con la mia pelle che è molto chiara. Ma noi vogliamo parlare dei vantaggi del sole. Mi dica come le piace il sole, perché? Poi arriviamo ai problemi. Ecco, allora, il sole mi mette buon umore. Oh, va bene. Problemi, qualsiasi problema, vedendo una giornata di sole mi viene l'allegria. Penso di superarli i problemi, ecco. Allora Marilena, dopo che ci ha rassicurato con un pensiero positivo nei confronti del sole, andiamo nell'altra faccia della medaglia. Il problema suo qual è? Allora, avendo la pelle molto chiara, avendo 53 anni, incomincio ad avere delle macchie marroncine sul corpo e anche in faccia. Quando mi espongo al sole diventano un marrone scure. Mm. Ho la pelle che mi si scotta anche con la dovuta protezione sotto l'ombrellone, anche nuvoloso, con tutti gli accorgimenti io mi scotto. Allora, dottoressa Serri, per Marilena. Allora, per Marilena, quello che le chiazze che riferisce, che le vengono, si chiamano lentigo, sono le vere e proprie lentiggini, questi accumuli di melanina che vengono sulle zone fotoesposte dopo una certa età. I dermatologi maschi le chiamano anche lentigo senili e vengono, sì, più frequentemente in chi ha la pelle chiara. Alla nostra ascoltatrice io suggerisco di iniziare già dal mese di maggio a prendere integratori solari fotoprotezione attiva, comunque mangiare tante carote, tante albicocche, tanti meloni e tante sostanze ricche di antiradicali liberi, anche fragole, mirtilli, eccetera. Questo fa molto bene. Applicare anche sulla pelle, a partire da un mese prima delle esposizioni, prodotti antiradicali liberi a base di vitamina C, vitamina E e tutte le molecole di cui abbiamo parlato, carotenoidi, ce ne sono in commercio diversi, applicarli proprio tutte le sere sulla pelle del viso e del corpo e delle zone esposte, e poi quando va al sole applicare una protezione solare a fattore solare 50 più, non si può dire più totale, soprattutto ricca di filtri fisici o filtri minerali che sono ossido di zinco e biossido di titanio. Se la applica in quantità adeguata con le precauzioni che le ho detto, non può avere problemi. Un ascoltatore, Fabio da Monza, mi scrive: ci siamo dimenticati che il sole, cioè l'abbronzatura, rende le donne e gli uomini molto più sexy, pertanto stimola a fare l'amore. Ma noi ne parliamo tra poco. Intanto saluto la dottoressa Pucci Romano, dermatologa, vicepresidente di Skineco, che è con noi. Dopo la viabilità affronteremo anche questo, che il segreto forse sia nella vitamina D e nel testosterone. Essere e benessere. Dottoressa Pucci Romano è in linea con noi. Buongiorno, buongiorno. Allora, tra i vantaggi del sole, il nostro ascoltatore ci suggeriva che in effetti aumenta la voglia di fare l'amore. È vero, infatti la maggior parte delle nascite si compie tra maggio, aprile e maggio, e quindi il concepimento avviene a luglio-agosto, guarda caso. Quindi la sessualità aumenta perché la luce favorisce anche la produzione migliore degli ormoni in qualche modo, resetta l'attività ormonale, migliora la performance tiroidea e quindi si è più predisposti, ecco. Quindi bisogna, ecco, approfittiamone, dottoressa Romano. Approfittiamone, ecco, certo. Oltre ai vantaggi del sole, che si è visto che appunto per effetto della luce solare aumenta la presenza di una vitamina, Wonder Vitamin, la vitamina D, e aumenta anche il livello di testosterone. Ci sono molte novità su questa vitamina, che poi non è una vitamina. Sarebbe un ormone. viene proprio prodotto dalla pelle. La novità interessante è che si è trovato un nesso tra chi ha l'osteoporosi, quindi le donne nella maggior parte con la menopausa vanno incontro a questo riassorbimento purtroppo del calcio da parte delle ossa, e aumento delle rughe. Quindi c'è un nesso, uno stretto nesso. D'altra parte l'osteoclasta, cioè la cellula che produce il collagene osseo, ha molto a che fare con il fibroblasto, cioè la cellula che produce il collagene della pelle, quindi della bellezza, della giovinezza. Quindi ha un'altra dote in più, scopriamo, per questa vitamina, che è veramente una vitamina meravigliosa e la cui carenza può creare grossi problemi. Per esempio ci sono delle situazioni metaboliche come l'aumento di colesterolo e l'assunzione di farmaci per il colesterolo. Queste cose per esempio non si sanno facilmente. L'assunzione di queste statine riduce drasticamente la produzione di vitamina D. E noi la prendiamo, bastano 15 minuti di esposizione solare, ma non in maniera da fare delle overdose, bastano pochi distretti, mani, viso, esposti quotidianamente per far sì che noi produciamo la quantità che ci serve. In più possiamo integrarla, ma per poca parte, sì, con un'alimentazione mirata che prediliga per esempio i pesci grassi, sì, perché il metabolismo della vitamina D ha molto a che fare con i grassi. È uno di quei pochi casi in cui vanno rivalutati i grassi, ma i grassi buoni appunto. Quelli del pesce ad esempio, del pesce, sì, grasso. Salmone, sardine, aringhe, sgombri. E poi anche molte cose che sono, non so, il sesamo, per esempio, allora mi viene, e lei sa, Nicoletta, che io sono una cuoca anche. Infatti, anche autrice di A tavola non si invecchia. Esatto. Allora, un filetto di tonno impanato nei semi di sesamo diventa, a parte un piatto gustosissimo da condire con un gocciolino di aceto balsamico. Diventa una bomba di vitamina D. Esatto. Buonissimo. Grazie allora alla dottoressa Pucci Romano. Puntiamo. Ciao Riccarda. Ciao bella, ciao. Ciao. La buona mia giornata. Amica Pucci. Buona giornata anche a lei, buona luce, che come mi scrive un ascoltatore è proprio un modo con cui si salutano i fotografi per augurarsi buona giornata e quindi buone buona foto. Buona luce, sì. E dottoressa Seri, sono arrivati tanti messaggi, tra l'altro c'è un libro in collaborazione con Rizzoli.it che aspetta uno dei nostri ascoltatori, un libro di Clio, Beauty Care, la cura della pelle e i cosmetici fai da te. Tanti messaggi, tante telefonate. E alcuni ascoltatori ci hanno raccontato le tre parole, lei quale ha scelto? Ma io avrei scelto, mi piace molto quella che ha detto che il sole, oltre a dare buon umore, è un problem solver praticamente, aiuta a superare i problemi. Ecco, questa mi sembra una cosa molto positiva. I problemi ci sono, se però qualcosa ci aiuta a superarli al meglio, bene, questa mi sembra la nota positiva. Poi che dia energia, buon umore, vitalità, luce, eccetera, però questa è la colpita di più, sì. E noi in una trasmissione tutta dedicata al vantaggio e ai benefici del sole vogliamo chiudere con un saluto al sole, e in linea con noi abbiamo Silvia Salvarani, maestra di yoga. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Una pratica che dà benessere a 360 gradi al corpo e allo spirito. È una pratica millenaria, una pratica magico-alchemica che appunto utilizza i movimenti del corpo, sono 12 posizioni come le ore del sole, e poi c'è naturalmente associato il pranayama, quindi la respirazione per guidare l'energia, e in più i mantra solari che servono proprio per entrare in connessione ancora più profonda con proprio la pratica dello yoga. E sono la pratica del saluto al sole, si chiama Surya Namaskar, è una pratica che è adatta a tutti, e tutti possono farla, iniziare perlomeno anche a praticarla come sempre con le dovute cautele, però poi ci sono diverse possibilità anche per chi non l'ha mai fatto, iniziare con una pratica più soft per poi raggiungere la pratica definitiva. È una pratica meravigliosa che veramente porta tantissimi benefici, tra l'altro serve anche per dimagrire perché brucia le calorie, perché è un'attività, quindi contrariamente diciamo alle posizioni classiche dello yoga che sono statiche, questa è una pratica dinamica e quindi regolarizza il metabolismo, per cui chi deve dimagrire dimagrisce. E poi prepara, di solito si fa all'inizio proprio della giornata, prepara proprio ad affrontare con una nuova energia, no? All'alba, al tramonto, insomma quando c'è il sole, comunque in generale rivolti a est, e questo si crea praticamente una connessione proprio con il sole, perché è stata concepita questa pratica proprio per, diciamo, questo, anche a un livello, come dire, spirituale, ecco, quindi. Grazie a Silvia Salvarani, quindi saluto al sole, grazie mille alla dottoressa Serri, che è anche una esperta del nostro Daily Lab, il nostro laboratorio del benessere, a cui vi invito ogni giorno ad andare a fare una visitina, perché ogni giorno un esperto, tra cui la dottoressa Riccarda Serri, vi aiuta a prendervi cura del vostro benessere. Dottoressa Serri? Bene, io qui voglio sottolineare l'importanza dell'alimentazione per abbronzarsi al meglio. Abbiamo parlato di antiossidanti, di vitamina D, di pesce, di olio. Quindi sicuramente meglio si mangia e meglio ci si abbronza. Grazie alla dottoressa Serri, grazie a voi che ci avete seguito. Vi aspetto domani dopo le 11. Essere e benessere.